Un anniversario oggi, quello dei 31 anni dall'omicidio di Valerio Verbano, di cui la radio ha già parlato diffusamente nel corso della mattinata, e noi non possiamo che associarci all'invito a partecipare oggi pomeriggio al corteo alle 17. In realtà già dalle 16 l'appuntamento è alla lapide di via Montebianco per portare un fiore a Valerio, mentre dalle 17 si snoderà l'usuale corteo che ogni anno attraversa le vie del Tufello. Non ho più una donna che mi possa aspettare, non ho più una terra su cui crescere e andare. La radio ne continuerà poi a parlare nel corso anche appunto della giornata, mentre noi quest'oggi da Maldestri invece ci concentreremo su un'agenda invece tutta internazionale, visto che andremo tra pochissimo ad iniziare parlando di Francia, di quanto sta avvenendo in Francia ormai a un anno dalle elezioni presidenziali, di come si cominciano a comporre anche gli scenari delle varie campagne elettorali. Per poi andare a parlare di Dresda, visto che questo sabato cadeva l'anniversario del bombardamento di Dresda, dell'usuale manifestazione nazista, quest'anno particolarmente osteggiata dagli antifascisti tedeschi. Come fossi ancora vivo, ma io vivo non sono più. Sono polvere, sono dolore. Non ho più figli, non ho più amore. Sono polvere, voi il vento mio. Allora, tra l'altro, siccome erano le 12, ormai già 25, ormai 28 nella foga, noi abbiamo anche presentato che questo è Maldestra, l'osservatorio antifascista di Radio Onda Rossa. E allora iniziamo così subito a bomba con il collegamento presentato poc'anzi. Dovremmo averlo al telefono, verifichiamo se intanto ci senti. Ci sei? Ecco, eccomi qui, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Allora, noi andiamo a riprendere qualcosa di cui abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, visto che proprio qualche settimana fa Marine Le Pen veniva eletta alla testa del Front National, e quello che doveva essere appunto il volto presentabile, tra con tutte le virgolette del caso, del Front National, che però in qualche modo andava anche a rispolverare i vecchi argomenti dell'antimondialismo, del neofascismo un po' anche più classico. E andiamo con te a vedere un po' adesso sta muovendo i suoi primi passi, i suoi primi dibattiti pubblici, eccetera, come si sta presentando in uno scenario anche un po' più ampio, che è quello appunto della Francia. Oggi è un anno dalle elezioni presidenziali, no? Sì, diciamo che questo è l'elemento. Tra 15 mesi si svolgeranno le elezioni presidenziali in Francia. Lo scenario è quello di un Nicolas Sarkozy messo in discussione da scandali, l'ultimo quello delle feste pagate, scusate, ai suoi ministri dal dittatore Ben Ali, proprio nei giorni che hanno preceduto la sua caduta e cose del genere, messo in discussione da molti elementi di debolezza della sua politica sociale, eccetera, che sta cercando in tutti i modi di immaginare un suo mantenersi sulla scena. E il problema è che in questo momento, diciamo, a fronte tentativo di Sarkozy di candidarsi alla successione di se stesso tra 15 mesi, si segnala come la vera campagna elettorale, che è già iniziata, quella che sembra dominare al momento l'attenzione pubblica del dibattito francese è in realtà quella dell'estrema destra incarnata da Marine Le Pen. Al momento l'intenzione di voto, secondo gli ultimi sondaggi, nei confronti della candidata del Front National, che si presenterà anche lei, anch'essa, alle presidenziali, è del 20%, quindi diciamo un numero molto alto. Siamo già a un quinto dell'elettorato interessato alle proposte del Front National, che sono, diciamo, questi numeri sono dei numeri abbastanza alti e inediti per la storia del Front National. E Marine Le Pen, diciamo, è scesa chiaramente in pista con due caratteristiche, su due elementi principali. Allora, il primo elemento è quello di una denuncia molto forte dell'immigrazione e dell'elemento culturale che una parte di questa immigrazione porta con sé, cioè la denuncia di un pericolo islamico per la tradizioni, per le istituzioni laiche della Repubblica Francese. L'altro elemento è legato a questo, è la denuncia dei numeri dell'immigrazione. Marine Le Pen ha ieri, ripresa da tutte le televisioni francesi e oggi dai quotidiani, ha svolto una relazione, una sorta di conferenza stampa in cui ha rivelato quelli che lei considera i numeri dell'immigrazione in Francia, che sarebbero frutto delle cifre che gli hanno fornito dei militanti frontisti, lei dice dei funzionari pubblici preoccupati, diciamo, della crisi della Francia, che lavorano nel settore dell'immigrazione, quindi presumibilmente dei funzionari del Ministero degli Interni. Questi dati non sono ancora stati pubblicati dal Ministero degli Interni, sono quindi dei dati che Marine Le Pen ha fornito, a suo dire, in maniera inedita e anticipando i dati del governo, che dicono che ci sono centinaia di migliaia di ingressi, probabilmente fino a 250.000 di immigrati irregolari l'anno, e che la Francia sta subendo in questa fase una sorta di invasione a fronte di pochissime espulsioni. E chiaramente Le Pen, Marine Le Pen, usa questo dato per dire: ma come, Sarkozy era il ministro della sicurezza, era il ministro che avrebbe tranquillizzato le classi medie, che avrebbe detto ai piccoli francesi bianchi: non vi preoccupate, perché, diciamo, fermeremo e cambieremo le sorti di questo paese da terra d'asilo e d'accoglienza in una terra che garantirà i diritti a chi c'è e non a chi vi arriva da fuori. Beh, insomma, Sarkozy da queste cifre è assolutamente smentito, il che vuol dire che la ricetta di Sarkozy ha fallito. L'unica ricetta possibile è la nostra, del Front National, di bloccare l'immigrazione, di chiudere le frontiere, di rispedire a casa chi sta qui in condizioni irregolari. Questo elemento ovviamente sta scuotendo il dibattito pubblico, perché non si tratta solo di una sparata di Le Pen. In questo caso Le Pen aggiunge dei dati, veri o presunti, il governo francese smentisce questi dati, ma ovviamente nell'opinione pubblica si può porre il problema: ma dovrebbe smentirli dando dei dati reali, visto che appunto Le Pen dice che sono dati forniti da funzionari del ministero stesso. Quindi si è aperta questa querelle, e in questa querelle si segnala poi un altro elemento, cioè il fatto che da tempo il Front National ha posto l'accento sulla minaccia islamica ai valori repubblicani della Francia democratica, tra l'altro strizzando in qualche modo l'occhio anche a una cultura progressista preoccupata, ad esempio, del velo, dell'uso del velo, preoccupata della presenza negli spazi pubblici dell'elemento religioso, in un paese che è molto diverso dall'Italia, in cui, diciamo, la laicità, l'idea che lo Stato sia neutro di fronte alle aspettative specifiche di ciascun cittadino, è molto importante. Per segnalare, diciamo, un elemento di paragone agli ascoltatori della radio, basti pensare che il Nouvelle Partie Anticapitaliste, la nuova formazione trotskista guidata da Besancenot, che tanto aveva fatto ben sperare, diciamo, l'estrema sinistra, si è spaccata nell'arco di un anno proprio sul fatto di candidare o meno delle donne velate, perché una parte del movimento femminista ha detto: ma come? Cioè, adesso, per aprire a questo tema delle seconde e terze generazioni di immigrati, noi mettiamo in discussione i diritti acquisiti, cioè che le donne devono essere libere, eccetera, eccetera. Adesso, senza ovviamente tornare qui a proporre la discussione sul velo, dico questo per capire quanto, per segnalare quanto è pressante questo tipo di dibattito. Bene, Le Pen lo interpreta da posizioni di estrema destra dicendo: noi siamo i veri difensori della laicità. E aggiunge un altro elemento, anch'esso di sfida, abbastanza evidente alla sinistra, quello di rappresentare il Front Nazionale, che ha avuto nell'arco dei 25 più anni della sua storia una posizione in politica sociale e economica che è andata dall'ultraliberismo di stampo reganiano, il laissez-faire più totale, diciamo deciderà il mercato le sorti della vita degli individui, ha un posizionamento sempre più sociale, sempre più di difesa dei diritti dei lavoratori, purché di nazionalità francese e tendenzialmente di pelle bianca. Ora il Front National, sotto la guida della figlia appunto di Jean-Marie Le Pen, si candida invece a diventare una sorta di partito di estrema destra totalmente sociale. Denuncia pubblicamente il mondialismo, la globalizzazione, nella quale vede la decadenza, come ben sappiamo, diciamo, delle tradizioni, delle culture nazionali, ma anche la messa in discussione dei diritti acquisiti, e si presenta come una sorta di formazione radicalmente dalla parte dei più deboli. Ad indicare questo tipo di scelta in termini politici e sociali, un recente dibattito trasmesso, il primo dibattito di una serie che una delle televisioni satellitari francesi, BFM, ha proposto già una quindicina di giorni fa, una settimana fa anzi, il primo dibattito di una serie che metterà gli uni contro gli altri i candidati alle presidenziali. Bene, Marine Le Pen si batteva, per così dire, quel giorno con Mélenchon. Mélenchon è un ex socialista che guida il Front de Gauche, una lista che, diciamo, si pone a metà strada tra i comunisti e i socialisti, e che cerca di tenere un po' a sinistra laddove il Partito Socialista perde voti e si rappresenta con posizioni più centriste. Quindi il Front de Gauche è stata la grande novità delle ultime elezioni francesi, cercando di proporre una sorta di unità di sinistra su parole d'ordine però non troppo centriste, sui diritti eccetera eccetera. Però è anche un ex ministro, è stato ministro a più riprese già nei governi di Mitterrand, quindi è una vecchia figura in qualche modo della politica del centro-sinistra francese. E nel dibattito televisivo Marine Le Pen gli ha rimproverato proprio questo, gli ha detto: ma come, proprio voi che avete condiviso le scelte economiche liberali, che avete condiviso l'impoverimento della Francia, che avete condiviso diciamo la riduzione dei posti di lavoro, la delocalizzazione e quant'altro, oggi vi dite che la sinistra potrà salvare i lavoratori francesi. E l'intera ora di trasmissione è stato un continuo ritornello di attacchi alla sinistra che difende il grande capitale, alleata del grande capitale, che difende gli interessi delle multinazionali, del mondialismo, della globalizzazione, e che in qualche modo è nemica dei lavoratori. Commento da studio del conduttore della trasmissione che in effetti al momento il Front National resta, dal punto di vista della composizione elettorale dei voti che raccoglie, il primo partito operaio di Francia, e che, come dire, queste parole Marine Le Pen non possono probabilmente che incrementare o comunque mantenere questa ipoteca su una parte almeno dei lavoratori francesi. Quindi, diciamo, una situazione estremamente complicata e di forte presenza e offensiva dell'estrema destra dopo che l'elezione di Sarkozy sembrava, oltre 5 anni fa, aver indebolito il Front National, svuotato una parte del suo serbatoio elettorale e ridotta capacità offensiva. Con Marine Le Pen, diciamo, il Front National sta ritornando protagonista, e in qualche modo sta ritornando protagonista anche con elementi nuovi, più complessi, probabilmente almeno apparentemente, da denunciare da parte dei movimenti antirazzisti e antifascisti francesi. E tra l'altro sta ricominciando anche a dettare un po' il punto del dibattito politico, poi anche nel dibattito politico francese, no? Anche appunto rispetto alla destra invece più moderata. Sì, diciamo che quello che appunto sta accadendo è che, ad esempio, sul tema della laicità e della difesa dello spazio laico francese, minacciato diciamo da questa sedicente minaccia islamica, al momento Sarkozy sembra rincorrere Le Pen, cioè l'UMP, il partito appunto del presidente francese, propone oggi un grande dibattito sulla laicità, dopo aver proposto lo scorso anno un grande dibattito sull'identità nazionale e l'immigrazione, cioè da segno evidente di preoccuparsi molto del fatto che una parte del suo potenziale elettorale, che viene da elettori di destra conservatori o da elettori di sinistra che nel corso di anni si sono progressivamente spostati per paura dell'immigrazione eccetera su posizioni di destra, diciamo continua a preoccuparsi soprattutto di avere un appeal destrorso, cioè sembra costantemente riprendere le parole del Front National cercando di occupare quel terreno, con il risultato paradossale che però in realtà il Front National esce rafforzato, perché che cosa si continua a dire? Si continua a dire in qualche modo le idee di Marine Le Pen hanno un senso. Beh, certo, se le idee di Marine Le Pen hanno un senso, le sue proposte politiche vanno ascoltate, perché non ascoltarle, no? Si finiscono per dire gli elettori. E in questo clima, diciamo, nella società francese si segnalano dei piccoli movimenti, dei piccoli segnali, talvolta che arrivano dalla cronaca, che indicano però come, diciamo, le elezioni presidenziali, la battaglia per le presidenziali a 15 mesi dal voto sia già iniziata, e sia iniziata molto male, cioè sia iniziata nel senso di una drammatizzazione di tutti questi elementi, l'identità, la denuncia, diciamo, della globalizzazione che mette insieme termini economici ma anche termini identitari, culturali, il sangue, le radici e quant'altro, che non potranno che favorire l'estrema destra. In questo contesto si inseriscono un paio di ultimi elementi che vanno segnalati, cioè da un lato la condanna per istigazione all'odio razziale di un giornalista, una penna molto importante delle Figaro, che si chiama Eric Zemmour. Le Figaro è un giornale conservatore, ma diciamo nello scacchiere dell'editoria francese è qualcosa intermedio tra il Corriere della Sera e il Giornale, cioè non è proprio un giornale estremista, assomiglia più a un Corriere della Sera conservatore, se così si potrebbe dire. Che è stato condannato per aver esplicitamente fatto riferimento a più riprese a dei particolari gruppi sociali o etnici a cui si farebbe riferire il crimine e, diciamo, il disordine della società francese. Le associazioni di difesa dei diritti dell'uomo, delle comunità musulmane, come quelle della comunità ebraica francese, lo hanno denunciato e hanno vinto la causa. Qual è però l'elemento interessante? Da un lato che si tratta di un personaggio di primo piano del giornalismo francese, dall'altro che a difesa di questo Eric Zemmour sono scesi in campo parecchi notabili dell'UMP, cioè parecchie figure politiche dello stesso partito del presidente Sarkozy, che hanno detto in qualche modo: ma vabbè, ma siamo sicuri, non è che qui c'è diciamo un po' la caccia alle streghe, e quindi avallando che si possano, diciamo, in qualche modo avere nello spazio pubblico delle esplicite prese di posizioni razziste, talmente esplicite che sono sanzionate dal codice penale francese. E l'altro elemento con cui concluderei è, diciamo, una sorta di eco sorda, lontana, ma che si comincia a percepire sul fatto che alcuni, tra gli osservatori pubblici in Francia, cominciano a chiedersi se quello che sta accadendo sulla sponda sud del Mediterraneo, diciamo la grande rivoluzione democratica o apparentemente tale che si sta muovendo nelle capitali del mondo arabo, non possa avere una sorta di onda, conoscere una sorta di onda di ritorno nelle banlieue parigine, nelle banlieue francesi, dove si sa la percentuale di giovani verdi, giovani di origine marocchina o nordafricana, è spesso superiore a un quarto della popolazione. Si dice in qualche modo: ma non è che questi giovani che guardano a quel mondo, che guardano all'Algeria, alla Tunisia, piuttosto che all'Egitto con interesse, che condividono spesso uno spazio culturale attraverso la musica, i social network, le reti satellitari, con i giovani di quei luoghi potranno, diciamo, in qualche modo ispirarsi a quanto sta avvenendo e scatenare, in questo caso non l'opzione democratica, ma la violenza o diciamo trattivo barra una nuova minaccia islamica nelle nostre città. E ovviamente questo elemento comincia a soffiare, si cominciano a cercare prove in tal senso, ci si comincia a chiedere se effettivamente possa accadere qualcosa del genere, e la destra, diciamo, cavalca questo timore con il solito meccanismo che ben conosciamo, che è quello in qualche modo di creare un elemento di pericolo, di emergenza costante, per poi candidarsi a governarlo, reprimerlo e controllarlo, dicendo che solo la destra stessa è in grado di garantire la sicurezza e l'ordine dei cittadini. Guarda, noi a questo punto questo aspetto qua io ti inviterei a raccontarlo anche in un'altra puntata, magari a riprendere anche a seconda di quello che saranno le prossime notizie anche dalla Francia, poiché siamo un po' stretti con i tempi e cominciamo a dover dare spazio con il collegamento a Dresda che scalpita. Perfetto. Noi intanto ti ringraziamo per l'estrema esaustività e ci risentiamo a brevissimo, insomma. D'accordo, buona trasmissione. Ciao, grazie. Ciao. E come annunciato dalla chiusura dello scorso collegamento, avevamo in linea Massimo Finizio, che ricordiamolo è la voce che ascoltammo già un paio di settimane fa rispetto a sempre vicende tedesche. Questa volta andiamo, se ci sente tra l'altro. Pronto, buongiorno, ciao, un saluto a tutti. Buongiorno, appunto andiamo a prendere in mano invece sempre, e appunto a proposito di Germania, quello che in realtà è una vicenda che ha un po' un respiro europeo, ovvero la per l'ennesimo anno la marcia dei neonazisti su Dresda, che dicevamo ha un carattere comunque europeo, un respiro europeo, è una manifestazione che ha un profondo significato per il revisionismo tedesco, ma non solo, rispetto alla seconda guerra mondiale e al nazismo in toto. Per l'ennesimo anno questa manifestazione neonazista ha dovuto però fare i conti con una massiccia mobilitazione, circa 15.000 persone che hanno bloccato anche quest'anno il corteo nazista del 19 febbraio. Sappiamo che quest'anno in realtà si articolava in due giornate, ne parlavamo anche due accennato all'appuntamento della settimana scorsa, quando abbiamo parlato del San Paoli. Mm-hmm. E le date sono state due, il 13 e il 19 quest'anno. In tutte e due purtroppo ci sono state una folta presenza dell'estrema destra, erano presenti circa 3.000 neonazisti in tutte e due le dimostrazioni, contro dei quali si sono presentati nella manifestazione del 13, che si è svolta in maniera un po' più pacifica da tutte le parti, oltre 20.000 persone nella città di Dresda, che hanno voluto dare un forte segnale contro questa presenza non gradita nella città. Sono arrivati dall'alloggiamento da tutta la Germania e anche da altri paesi, e i dimostranti hanno fatto una lunga catena umana e chiuso praticamente varie volte la possibilità di potersi muovere all'estrema destra, presente ed era presente anche in forte numero la polizia e ha cercato di evitare contatti tra le due posizioni. I dimostranti hanno dato un forte segnale, unendosi tutti quanti e dando la risposta che la città e anche la Germania voleva dare per il ricordo dei bombardamenti della città di Dresda che rasero al suolo completamente la città più ferita dalla Seconda Guerra Mondiale da sotto questo punto di vista, e per questo sono venute oltre 20.000 persone. Il 19 invece la situazione è stata differente, perché qui era una dimostrazione in particolare solo della estrema destra, che come dicevi tu ogni anno si ritrova nella regione, la Sassonia più a destra di Germania. Nel Parlamento di Dresda infatti sono presenti 8 deputati della NPD, il Partito Nazionalista Tedesco, e il governo è un governo di destra tra liberali e la CDU. Qui ci sono stati il 19 provenienti sempre da tutta quanta la Germania, oltre 10.000 persone che hanno provato e cercato di non far marciare l'estrema destra. La polizia un pochettino più rilassata ha cercato di lasciargli il passo e ci sono stati alcuni incidenti proprio tra i gruppi antifascisti e soprattutto l'estrema destra e la polizia, logicamente, che ha cercato di non far venire in contatto. Una situazione molto incresciosa si è verificata verso la fine della giornata, quando la polizia ha fatto irruzione, come vi ho mandato anche dei link prima, ha fatto irruzione in gruppi e nelle sedi dei partiti e delle organizzazioni che avevano cercato di organizzare questa controdimostrazione. A quanto pare dalle informazioni la polizia avrebbe detto che i mandati di perquisizione li aveva solo a voce, e quando si sono presentati hanno detto che volevano perquisire alcuni uffici di un centro giovanile, il Rotherbaum, Albero Rosso. Poi però si sono un pochettino allargati e hanno devastato praticamente sia la sede del partito della Linke di Dresda, prendendo circa 14 persone, fermandole per un'intera giornata fino al giorno dopo, e poi altri uffici di avvocati e altri che collaboravano con tutti quanti le organizzazioni antifasciste di Dresda, e logicamente hanno lasciato tutto il palazzo distrutto. Senti. Stanno adesso facendo, ci sono alcune situazioni giuridiche, però la situazione è abbastanza complessa, perché presentandosi con un mandato di perquisizione a voce, in Germania in genere bisogna avere un documento almeno, e poi hanno detto che il mandato di perquisizione era soltanto per un ufficio, invece sono entrati devastando tutto il palazzo, la cosa potrebbe avere delle conseguenze fortemente contro la polizia. Speriamo che venga tutto quanto messo bene e le persone che si sono comportate in maniera antidemocratica vengano perseguite. Il fatto però che ultimamente questi fatti si stanno ripetendo sempre, dove la polizia entra, lo ha fatto anche l'anno scorso qui ad Amburgo in zone o in uffici dove ci sono organizzazioni antifasciste, lo ha fatto qui ad Amburgo, al San Paoli, distruggendo alcuni uffici di tifosi del San Paoli, e le cose rivengono anche perché quest'anno sarà un anno di votazioni in tutta la Germania. Voi avete parlato prima della Francia, di Le Pen, qui proprio domenica ci sono state le votazioni ad Amburgo e la SPD ha conquistato la maggioranza assoluta dei deputati al Parlamento, anche se qui c'è stata però una forte presa di posizione dell'AMPD, che per la prima volta ha raggiunto il 0,9%, quindi c'è un piccolo ritorno dell'estrema destra in tutta la Germania, ed è quello che noi non speriamo. Senti, una domanda che in realtà un po' già hai dato una risposta, però magari se riusciamo ad allargarla un po'. È una cosa abbastanza curiosa, che rispetto a questo, almeno rispetto a quello che vediamo dall'Italia, che rispetto alle alleanze così ampie che si producono intorno a queste iniziative, penso a quello che era nato a Colonia contro Proköln, quello che nasce, che è nato il primo. C'è anche una situazione a Stoccarda. Sì, no, dico, queste alleanze molto ampie, che vanno fondamentalmente dall'associazionismo, i partiti, i movimenti, sì. e con anche una bellissima moltitudine di linguaggi, tra l'altro, e di pratiche in queste giornate, con profondo rispetto, mi sembra, reciproco fra le parti. E effettivamente poi la repressione si accanisce molto spesso soprattutto verso quei soggetti, diciamo, più vicini al dibattito democratico. Tante volte era successo l'anno scorso sempre a Colonia, ricordavi giustamente, è successo quest'anno. Comunque le perquisizioni e la pressione repressiva tante volte avvengono verso quello poi che è il lato pubblico, per quanto poi più presentabile, delle mobilitazioni. Se puoi magari fare un piccolo ragionamento intorno a questa cosa, spiegandoci le motivazioni. Come detto, è una situazione particolare, cioè incresciosa, ma soprattutto che di prima acchito non si riesce a dare una spiegazione logica. Quello che sicuramente c'è dietro questo momento, diciamo, politico, dove la destra governativa con la Merkel sta perdendo punti da tutte le parti, e dall'altra parte c'è un... vediamo, almeno tu dicevi Colonia e Hamburgo, io ho ricordato prima, e anche Stoccarda, ci sono qui la sinistra con la Linke sta riunificando, mi pare l'hai accennato anche tu, un po' tutta quanta la sinistra, quello che non avviene per esempio da noi in Italia, e adesso la Linke è presente in tutte le regioni della ex Germania Ovest, cosa che è un grosso risultato. Le ultime votazioni qui di domenica la Linke ha preso il 7% entrando nel Parlamento per la seconda volta, e quindi è una forte presenza, quindi diciamo noi democratici, e che molte persone non desideravano, specialmente la SPD e i grossi partiti conservatori della Germania. Per cui queste perquisizioni, queste voglia di cercare di accendere la miccia e far scoppiare qualche cosa, cercare di portare inquietudini e problemi, è un fattore che si sta ripetendo, come dicevamo, spesso, ed è una cosa a cui dovremo logicamente stare attenti nei prossimi tempi. Come detto, quest'anno in Germania ci saranno 9 votazioni a livello regionale. La Germania è una repubblica federale, quindi le regioni portano al Senato i propri deputati, per cui il risultato per esempio di domenica di Hamburgo porterà 3 nuovi deputati della sinistra, chiamiamolo così, democratica, socialdemocrazia tedesca, al posto di 3 della destra tedesca che erano prima al governo, il che significa cambieranno anche le composizioni, soprattutto le maggioranze nel Parlamento, quindi sono votazioni molto importanti, e si sta cercando di discreditare diciamo la sinistra. Senti, noi purtroppo siamo in chiusura, ci fa piacere sapere che insomma bene o male possiamo contare su questa voce per aggiornamenti dalla Germania, quindi io non so, più che altro a questo punto ci lasceremo, diciamo, con ovviamente l'augurio di poterci risentire. Senz'altro. Anche per avere, appunto, è un mondo molto prolifico quello del movimento antifascista tedesco, notoriamente bene o male è un po' un brand riconosciuto in tutta Europa, e ci fa piacere avere questo ponte diretto. Tra l'altro felicitazioni per il St. Pauli, che ricordiamo l'ha vinto poi il derby rigiocato. Il derby sarà una bella vittoria, anche se sabato con il Dortmund non si poteva fare di più. Anche se anche là effettivamente c'è anche qualcosa di anche là le venature politiche esistono. Anche assolutamente. Sabato a Dortmund c'erano forse più bandiere rosse che bandiere marroni. Va bene, e allora un abbraccio e ci risentiamo non un appena. Un saluto a tutti quanti. Ciao. Ciao, ci vediamo. Tête sociale, classe contre classe, blanc contre noir, une maladie génétique, la pandémie capitaliste. Ennemis nécessaires. Que te reste-t-il alors si l'on foutre le feu? E sulle note della brigata Flores Magón, Fire Fire, ci lasciamo ancora per questo martedì, piuttosto significativo per Maldestra cadere di 22 febbraio, ricordiamolo, anniversario, 31esimo anniversario dell'omicidio di Valerio Verbano. L'appuntamento in piazza è stato ricordato più volte, è alle 4 per portare un fiore a Valerio, alle 5 per il corteo che si dirigerà verso la palestra che porta il nome di Valerio Verbano, dove si svolgerà intorno alle 8 un'iniziativa con Militantà, un'iniziativa teatrale con attrice contro e Militantà. Con questo direi che è tutto, vi lasciamo al GR dell'Una a cui abbiamo sottratto qualche minuto e soprattutto a un po' di musica.